Il falco. Il falco. E il gabbiano. E il gabbiano. Di Enrico Ruggeri. In tutti i campi delle azioni umane esistono, per fortuna, quelli che possiamo chiamare i pionieri. Esistono persone che sono più avanti degli altri, perché lo sapete, la storia la fanno le minoranze o addirittura i singoli, e ci sono questi che hanno una marcia in più, che aprono la strada a quelli che arriveranno dopo di loro, che creano i cosiddetti precedenti. Magari sono persone che all'inizio non vengono capite, che devono lottare per farsi capire, per spostare i confini, per alzare l'asticella, per allargare gli orizzonti, per mostrare delle vie fuori dall'usuale. Sono persone che quasi sempre devono fare una grande fatica, possono arrivare anche a sacrificare la loro vita in nome di un ideale. Poi la massa arriva dopo. E oggi noi raccontiamo la storia di una di quelle persone, un pioniere della comicità, della satira, quindi un argomento molto molto attuale, uno senza il quale oggi non esisterebbe la figura dello stand-up comedian, che è un genere molto diffuso negli Stati Uniti, ma anche da noi, cioè il comico che fa il monologo da solo davanti al suo pubblico, e generalmente è un monologo di satira anche pungente, di costume, non le barzellette. Stiamo parlando di spettacoli veri e propri che trattano argomenti di peso: la religione, la politica, il sesso, la droga, il razzismo. Bene, il nostro protagonista di oggi è diventato molto famoso negli anni 50. Il suo linguaggio era volutamente provocatorio, direi volgare, una satira deliberatamente oscena, irrispettosa, e tutto questo gli è costato moltissimi processi, addirittura la vita. Però la sua determinazione ha cambiato le regole del gioco e un certo modo di considerare la parola. Oggi noi raccontiamo le battaglie di Lenny Bruce, il più grande comico satirico statunitense di tutti i tempi. E siccome sarebbe difficile capirlo, perché parla in americano e il suo linguaggio richiederebbe, come dire, delle conoscenze che noi non abbiamo, delle conoscenze anche sulle sfumature linguistiche e su quello che accadeva in America, ci aiuteremo con un film dedicato a lui, uno straordinario film del 74, Lenny, diretto dal grande Bob Fosse e interpretato da un gigantesco Dustin Hoffman, doppiato da un altrettanto gigantesco Gigi Proietti. C'è qualche lurido negro qui stasera? Vediamo. Ecco là, due luridi negri. E fra quei due negri c'è un giudio usuraio. Là c'è un altro giudio, due usurai e tre luridi negri. E c'è anche uno spaghetti. Oh, ecco un altro spaghetti. E ecco là un greco traditore. E poi un paio di spagnoli unti. E anche tre ubriaconi irlandesi vestiti bene. E poi c'è un tipo nero, nero, nero, brutto. Un lurido negro. Ho tre usurai qui, qualcuno dice cinque usurai, siamo a cinque usurai. Qualcuno dice sei spaghetti, ho sei spaghetti. Qualcuno dice sette negri, siamo a sette negri. Aggiudicato. Stavi per spaccarmi la faccia, vero? E con questo siamo arrivati al punto. E cioè che è la repressione di una parola quella che le dà violenza, forza, malvagità. Attenti, se il presidente Kennedy apparisse in televisione e dicesse vorrei farvi conoscere tutti quanti i negri del mio gabinetto, e se continuasse a dire negro, negro, negro, negro, negro, negro, tutti i negri che vede, negro, negro, negro, negro, negro, negro, finché negro non significa niente, mai più, allora non vedreste più piangere un bambino di colore di 6 anni perché qualcuno a scuola lo ha chiamato negro. Ecco, avete sentito, questo era un tipico monologo di Lenny Bruce, quello che ha inventato il politicamente scorretto. Anzi, questo era anche un monologo pulito, perché lui di solito usava molte parolacce. Però questo comunque è un esempio ben calzante di quello che lui faceva. Cercava di creare un momento di grande attenzione del pubblico, poi dava un pugno nello stomaco alla gente per farla riflettere. Il film di Bob Fosse, che è stato realizzato molto bene, ha usato esattamente i testi dei monologhi di Lenny Bruce, e questo ci permette di capire bene quello che lui faceva e com'era rivoluzionario nell'uso del linguaggio. Non è difficile immaginare che Lenny Bruce abbia avuto una vita dura, perché la sua scelta di andare fuori dal coro, di essere così scandaloso, di usare una satira sociale irrispettosa e oscena per scuotere gli animi, gli ha causato problemi con la giustizia. Stiamo parlando degli anni 50, in un paese come gli Stati Uniti, dove su certe cose era meglio non scherzare ed era meglio non parlare di certi argomenti. Eravamo già in odore di maccartismo, invece lui non solo ne parlava, ma ne parlava in quel modo, e questo gli ha causato accuse, arresti, processi che hanno fatto epoca, che hanno diviso l'opinione pubblica, ma che oggi, a distanza di tanti anni, rappresentano un punto fermo delle lotte per la libertà di parola non solo negli Stati Uniti ma in tutto il mondo. Bene, vediamo di conoscere meglio Lenny Bruce. Il suo vero nome è Leonard Alfred Schneider. Nasce il 13 ottobre del 25 a Mineola, sull'isola di Long Island, nello stato di New York. Come dice il cognome, Schneider nasce da una famiglia ebraica. Il padre vende scarpe, lui lo frequenta poco perché i suoi divorziano quando ha solo 5 anni, poi lo vede saltuariamente. Invece la madre, Sadie Kitchenberg, è un'attrice conosciuta con il nome d'arte di Sally Mara, un'influenza determinante nella carriera di suo figlio. Lenny fino a 16 anni vive un po' con lei, un po' coi parenti quando la madre è in tournée, poi a 17 anni nel 42 si arruola nella Marina americana. È proprio qui, mentre è sotto le armi, mentre impazza la guerra, che lui dà vita al suo esordio, un contestatissimo spettacolo destinato a causargli il primo di una lunga serie di problemi con la giustizia. Il falco e il gabbiano. Siamo nel 1942, in piena seconda guerra mondiale. Lenny Bruce, che allora si chiama Leonard Schneider, si arruola nella marina statunitense, o meglio viene arruolato, si imbarca sull'incrociatore Brooklyn, che compie missioni in Nord Africa, in Sicilia e nel Lazio, ad Anzio. Nel maggio del 45 lui organizza uno spettacolo per i suoi commilitoni, ha la bella pensata di travestirsi da donna. Questo fa infuriare i suoi ufficiali di comando, e lui approfitta di questo incidente perché convince l'ufficiale medico di provare pulsioni omosessuali per ricevere la radiazione del servizio per tornare a casa. Eh sì, perché in quegli anni così andava. A luglio lui viene espulso con disonore dalla Marina americana. Torna negli Stati Uniti, va a New York con l'obiettivo di diventare un comico professionista. In questo è influenzato dalla madre, che in quel momento è un'attrice brillante di un certo successo. Lei gli procura probabilmente i primi ingaggi e lui sceglie un nome d'arte, Lenny Bruce. Siamo nel 47, però è diverso fare l'attore comico sulla falsa riga di quello che fa la madre, cioè recitare testi comici scritti da altri, oppure diventare un monologhista satirico. Il passaggio avviene probabilmente in maniera naturale. Ascoltate il ricordo di Julian Bear, che è l'autore della commedia Lenny, da cui è stato tratto poi il film di Bob Fosse. Un giorno, nessuno sa bene come, fece il passaggio dalla comicità come quella che facevano tanti, quella di sua madre, all'essere uno stand-up comedian, a parlare di quello che vedeva, in un modo che ha rivoluzionato la comicità, la satira. Perché nessuno l'aveva mai fatto. Nessuno. Because nobody else had done that. Nobody. E grazie alla madre lui prende parte a un episodio del famoso programma radiofonico Arthur Godfrey's Talent Scouts, un programma che lanciava appunto nuovi talenti. Lui si esibisce imitando delle stelle del cinema di quegli anni, Humphrey Bogart, James Cagney, Edward Robinson. Ottiene un successo strepitoso, ma il suo vero colpo d'ala arriva quando lui comincia a esibirsi nei locali notturni, soprattutto strip club. Intrattiene il pubblico negli intervalli dei numeri delle spogliarelliste, e non è facile, perché quando stai aspettando che una donna si spogli è difficile che qualcuno ti possa distogliere. Bene, lui e ci riesce, va di moda in quel periodo, quel genere di locali negli anni 50, un comico deve farsi le ossa perché intanto si beve, si fa tardi, si ride, c'è quel giusto livello di trasgressione e anche di divertimento. Insomma, questo è il pubblico ideale per Lenny Bruce, che sta affinando la sua tecnica, sta creando un vero e proprio genere che per il momento ancora non esiste, lo stand-up comedian, il monologhista satirico. Ed è proprio in uno di questi locali che nel 51 Lenny Bruce conosce Honey Harlow, una spogliarellista della quale lui si innamora perdutamente, e lei sarà il grande, unico, vero amore della sua vita. I due si sposano, è una grande passione la loro, che però porta Lenny a essere geloso della professione della moglie. Insomma, non fa piacere che tua moglie si spogli pagata per farsi guardare dagli altri uomini, diciamolo. E lui la vuol far smettere, l'unica arma che ha è fare più soldi di lei. E per questo non gli basta fare il comico, qui viene fuori tutta la sua inventiva. Intanto si spaccia per prete e fonda a New York la Brother Matthias Foundation, una organizzazione caritatevole istituita legalmente e impegnata per raccogliere fondi per una colonia di lebbrosi nella Guinea inglese, una colonia che esisteva realmente. Insomma, per un po' la cosa va bene, lui raccoglie molte donazioni. Nella sua autobiografia, Come parlare sporco e influenzare la gente, scrive che arrivava a accumulare anche $8,000 al mese, e lui ne spediva qualcuno, diciamo il 2005, massimo 3,000 alla colonia di lebbrosi, gli altri se li teneva, diciamo, per le prime spese. Poi però viene smascherato, la polizia lo arresta, ma siccome la sua fondazione esiste veramente e lui i soldi li invia effettivamente, decadono le accuse e lui viene liberato. Con la chiusura della Brother Matthias Foundation, Lenny Bruce deve trovare qualcos'altro da fare per guadagnare in fretta tanti soldi. Insomma, gli viene in mente di scrivere delle sceneggiature di film da interpretare lui con sua madre e con la moglie Honey. Nel 53 realizza il primo film, Dancehall Racket, poi seguono Dream Follies e The Rocket Man nel 54. Non hanno grande successo questi film, anche perché non sono dei grandi film, sono dei tentativi di lanciare la moglie come attrice a fianco della madre pur di toglierla dai palcoscenici dello strip club. Insomma, diventa un'ossessione questo per lui. Poi nel 55 i due hanno una bambina, Kitty, e finalmente, se Dio vuole, la moglie smette di fare la spogliarellista, anche perché nel frattempo Lenny comincia a farsi conoscere in giro, avere un certo seguito, e se prima la gente andava a vedere le ragazze e lui era un divertente intermezzo, adesso si verifica il contrario, perché Lenny Bruce comincia a fare scandalo, fa parlare e soprattutto fa riflettere. Lo sapevate che Eleanor Roosevelt aveva attaccato lo scolo a Primo Carnera? Cosa ha detto quello? Santo cielo, che volgarità! Deve parlare così per far ridere la gente. Qual è il punto? È di pessimo gusto. Ma il punto è la repressione delle parole. Tutti i dottori che conosco mi dicono che una certa malattia potrebbe diventare di nuovo epidemica, mentre tutti sanno o dovrebbero sapere che una bella iniezione sul culo la farebbe sparire, giusto? E invece eccola lì, la malattia venerea, in cima all'elenco di quelle più diffuse. Perché? Perché nessuno ne parla, nessuno vuole nemmeno dirla quella parola. Infatti, quando vi spolpano con le tasse e i contributi, domandate mai: scusi, ma quanti dei miei soldi serviranno a combattere lo scolo? Credo proprio di no, amici. Quello che dovremmo fare è cominciare a parlarne. E va bene, Eleanor Roosevelt ha attaccato lo scolo a Primo Carnera. E lo ha attaccato anche a Chiang Kai-shek. E lui lo attaccò al capo dell'FBI, amici, ed ecco perché ebbe tanta diffusione. Capite? Ve lo dico io che cosa ci vorrebbe. Che un giorno Jerry Lewis apparisse in televisione e invece di romperci con la sua distrofia muscolare, ci parlasse dello scolo. Ma che non succederà mai, e sapete perché? Perché parlare di queste cose vi fa diventare il peggiore elemento della società. Insomma, Lenny rompe gli schemi, va oltre, cerca di coinvolgere il pubblico toccando argomenti intoccabili. Parla in termini veramente poco riguardosi di Eleanor Roosevelt, che era una intoccabile ovviamente nella società americana, ma non lo fa in maniera fine a se stessa, lo fa per affondare la lama negli argomenti che più gli stanno a cuore, per parlare, come nel caso di questo famoso monologo, di parlare di come sia pericoloso nascondere le malattie infettive o trasmissibili sessualmente, un problema sociale che poi abbiamo visto è diventato un fenomeno ben più grave con l'AIDS. Insomma, ci fa capire quanto lui fosse avanti, quanto avesse a fuoco alcuni scenari che si sono verificati anni dopo. Lenny Bruce non è trasgressivo solo sul palcoscenico, perché l'ambiente in cui lavora e le persone che frequenta lo portano a avvicinarsi pericolosamente alle droghe, e anche alle droghe pesanti. Insomma, Lenny e sua moglie Honey diventano molto presto dipendenti dall'eroina. E quando arrivano quelle droghe tutto si sfascia, il matrimonio comincia a vacillare, litigano spesso, lei decide di tornare a calcare le scene, cioè a fare quello che lui temeva che lei avrebbe fatto, tornare a spogliarsi. Insomma, nel 59 i due divorziano, lei se ne va alle Hawaii con un nuovo fidanzato, lasciando la bambina a Lenny e alla madre. Per Lenny è un dramma dal quale in realtà non si riprenderà mai, non si risposerà più, il suo livello di dipendenza dall'eroina, dalla morfina, dalle anfetamine andrà crescendo. E a fare da contraltare però questa disfatta nella vita privata è invece il trionfo nella vita pubblica. Lui è popolarissimo, è uno che non ha nulla da perdere, non ha paura di inimicarsi nessuno, la sua satira comica assume sfumature sempre più definite, lui sposta sempre di più il limite, diventa il portavoce di una controcultura che l'America ben pensante vuole ridurre al silenzio, ma senza riuscirci. Il falco e il gabbiano. Il nostro protagonista di oggi è Lenny Bruce, pioniere della comicità americana, considerato uno dei simboli delle battaglie per la libertà di parola negli Stati Uniti. È grazie a lui che nasce la figura dello stand-up comedian, è il monologhista satirico che è diventato un genere di spettacolo molto apprezzato e diffuso nel mondo. Ancora oggi in Italia vedete molte persone in piedi da sole con un pubblico che parlano di satira, tutto grazie a lui, grazie a Lenny Bruce, e grazie anche alle sue battaglie legali, a una vita intera dedicata a fare rispettare il primo famoso emendamento della Costituzione americana, quello che difende la libertà di parola. E grazie a lui che oggi molti comici possono esprimersi liberamente in un paese oscurantista dal punto di vista mentale come gli Stati Uniti. Lui è arrestato, processato, condannato più volte per oscenità, vilipendio della religione, diffamazione, e lui riesce sempre a spostare i confini dei temi sui quali è permesso fare satira negli Stati Uniti. Insomma, lascia un'eredità a cui devono molto non solo i comici, ma tutti quelli che fanno satira, che usano il linguaggio per portare avanti le proprie battaglie in nome della libertà di parola. E qui siamo arrivati al 1961, quando la fama di Lenny Bruce ormai ha raggiunto ogni angolo del paese. Di lui si parla molto bene, molto male, ma comunque si parla. Ha degli amici influenti, uno sicuramente non poteva essere che Hugh Hefner, il fondatore di Playboy, un altro alfiere, diciamo, del diritto alla libertà a qualunque costo. Hefner lo stima moltissimo, gli dà molto spazio sia nei suoi canali televisivi che sulle pagine della sua rivista, dove peraltro verrà pubblicata anche la sua autobiografia. Un altro alleato è un altro uomo influente, si chiama Steve Allen, è un conduttore di diversi show di grande successo, lo ospita nei suoi programmi, anche se ogni volta le performance di Lenny Bruce devono passare al vaglio delle commissioni di controllo, spesso vengono tagliate, ma comunque si tratta di apparizioni televisive che danno a Lenny Bruce grande notorietà. Il suo colpo d'ala più grande però è quello del 3 febbraio 1961. Lui si esibisce alla prestigiosa Carnegie Hall di New York, è uno spettacolo che viene registrato e diventa un cofanetto contenente tre dischi dal titolo The Carnegie Hall Concert. Il biografo e esperto musicale Albert Goldman, che ha scritto il libro Ladies and Gentlemen Lenny Bruce, nella presentazione del cofanetto scrive così: la performance contenuta in questo cofanetto è quella di un figlio dell'epoca del jazz. Lenny si è esibito come un musicista jazz della parola. come se fosse Charlie Parker. Ha preso in mano il microfono, come se si trattasse di una tromba, e ha soffiato. Soffiato tutto quello che gli passava per la testa, senza censura, senza mediazione, fino a quando non è diventato puro cervello che emanava onde cerebrali nelle teste di ogni uomo e di ogni donna che sedeva nel grande teatro. Mandava, mandava, mandava, fino a quando ha smesso di essere un performer ed è diventato un medium che trasmetteva messaggi arrivati dall'esterno. Diceva cose che non aveva pensato di dire, cose che lo sorprendevano, come se anche lui fosse spettatore della sua stessa performance. Eh sì, è una bellissima recensione, perché intanto descrive la sensazione di quelle che assistono allo spettacolo di Lenny Bruce e poi capiscono quanto per la prima volta il pubblico fosse portato a interagire, ma anche mentalmente, quando lui dice un medium, in realtà fotografa una situazione che poi si ripeterà negli anni anche con altri comici, e gli argomenti sono sempre diversi, si rifanno all'attualità, ma il suo intento è sempre lo stesso: mettere in ridicolo l'ordine costituito, denunciare, sottolineare l'assurdità di certi modi di pensare comuni, anche di certe leggi. La satira in realtà è questo: punire la protervia dei potenti. Per quello che prendere in giro un paese che ha subito un terremoto non è satira, perché non stai colpendo un potente, e il vero coraggio è quello di mettersi contro i poteri forti. Diciamocelo, sono diversi gli uomini. E le donne questo non lo capiscono. Perché per una donna tradire significa carezze, tenerezze, baci, simpatia, insomma deve almeno volere un po' di bene a quell'altro. Per un uomo invece questo non c'entra affatto, perché gli uomini sono distaccati, sono diversi. Mettete un tizio su un'isola deserta e quello si farebbe chiunque: una gallina, una botte, qualsiasi cosa, un buco nel legno. Quindi, quando si sa questo, come fa una donna ad offendersi se tornando a casa trova il marito a letto con una gallina? Una gallina nel nostro letto. Ma dai, su, non mi toccare. Se vuoi la cena, fatela preparare dalla tua pollastra. Sapete, a New York è illegale rapporti sessuali contro natura con un animale, in particolare una gallina. La legge dice proprio così. Ma come si fa anche a immaginarlo? Come mai stasera sei solo? La tua pollastra è partita? Oh, mi vuoi lasciare in pace con quella pollastra? Ero sbronzo, l'ho incontrata in cortile. E comunque, mentre lo facevo, ho pensato sempre a te. Vista la natura degli argomenti che lui tratta, sesso, droga, religiose, e viste le categorie che lui ridicolizza, cioè i politici, i ben pensanti, la borghesia americana, è inevitabile che prima o poi la censura entri in conflitto con lui. Questo accade per la prima volta il 4 ottobre del 61 a San Francisco, dopo uno spettacolo al Jazz Workshop. L'accusa è oscenità. Lenny ha usato la parola cocksucker, che non posso che tradurvi con pompinaro. Ha affermato che il verbo venire è solo un verbo, se qualcuno si offende a sentirlo quando è usato in ambito sessuale, perché probabilmente non riesce a venire. Insomma, ce n'è di che arrestarlo, e infatti i poliziotti lo arrestano, poi la giuria lo assolve, però inizia un costante monitoraggio legale nei suoi confronti, che porterà ad altri arresti per oscenità, vilipendio della religione e però anche per possesso di droga. Diventa quasi una moda arrestare Lenny Bruce, cioè ogni suo spettacolo è un'occasione per scommettere cosa dirà, con chi se la prenderà. Lo arresteranno stavolta. È una situazione che fa gioco, ma lui fa gioco a se stesso e anche alla controparte, come sostiene il suo amico Hugh Hefner. Busting Lenny Bruce? Arrestare Lenny Bruce poteva essere una buona pubblicità per un politico, un avvocato distrettuale o un poliziotto. Quello che offendeva di più il potere costituito era tutto quello che gravitava attorno alla religione. L'uso di un certo linguaggio, di discorsi liberi, del libero pensiero, potevano portare uno in prigione negli Stati Uniti. È impensabile oggi, ed era impensabile per me anche allora. Unthinkable now and was for me unthinkable then. Insomma, lui si fa molti nemici e tra questi ce n'è uno che diventa il suo nemico giurato. È l'avvocato distrettuale di Manhattan, Frank Hogan, che è legato al cardinale Francis Spellman, arcivescovo di New York. Diventa un vero e proprio accanimento contro Lenny da parte dell'avvocato Hogan. Peraltro tutto è legato a un monologo molto famoso a New York, nel quale il comico racconta l'avvenuta sulla terra di Cristo e di Mosè. I due incontrano il cardinale Spellman e Gesù dice a Mosè: sono stato nel quartiere spagnolo di Harlem, ho visto 40 portoricani che vivevano in una sola stanza. Che ci facevano lì se quest'uomo adesso indossa un anello da $10,000? Insomma, mette il dito sulla piaga, cioè sulla discrepanza tra la grande ricchezza della Chiesa e invece la povertà che gira tra tutti quelli che la Chiesa in teoria dovrebbe proteggere. Insomma, sottolinea l'ipocrisia di un prelato di altissimo livello, cioè l'arcivescovo di New York, si firma da solo la sua condanna. Hogan diventa l'ombra di Lenny Bruce. Ogni volta che lui si esibisce, l'avvocato mette poliziotti in borghese tra il pubblico e appena può lo fa arrestare per oscenità o vilipendio della religione. È una vera e propria persecuzione per colpire lui, per fargli terra bruciata intorno. Cominciano a venire arrestati anche i proprietari dei club dove lui si esibisce, vengono considerati correi. E nonostante le petizioni che vengono firmate da personalità, da intellettuali dell'epoca, da attori, da gente come Woody Allen, Elizabeth Taylor, Bob Dylan, Norman Mailer, Lenny viene comunque arrestato ancora più volte. Nel novembre del 64 viene condannato a 4 mesi di reclusione. A quel punto lui reagisce a suo modo, gli spettacoli che fa si trasformano in una dettagliata descrizione dei suoi incontri con la polizia, dei processi, per terminare sempre con un accorato appello al famoso primo emendamento della Costituzione americana, quello che garantisce la libertà di parola. Però piano piano lui non trova più lavoro perché i proprietari dei club e dei teatri non se la sentono di rischiare la prigione per lui e poi comincia a costare difendersi. Lo sapete, in America te la cavi se hai dei buoni avvocati, ma i buoni avvocati costano tanto. Insomma, Lenny comincia a avere seri problemi di soldi. Vostro onore, so che lei è una brava persona e so che questo sistema legale è il migliore del mondo, ma lei non vuole nemmeno sentirmi. Signor Bruce, si sa. Quando parlo di tette e di culi, non lo faccio solo per scandalizzare la gente. Ripetendo quelle parole, tette e culi, culi e tette e culi, il punto che voglio dimostrare è che noi tutti viviamo in una società ipocrita e malata. Signor Bruce, lei non mi lascia altra scelta che incriminarla per vilipendio della corte. Ok, allora mi condanni subito. Non ho più nemmeno un soldo. Posso essere condannato? Non posso permettermi di affrontare un processo. La polizia mi ha tolto la tessera sindacale, non posso più lavorare. Per piacere, mi condanni. No, signor Bruce, io non la condannerò oggi. E le ordino, quando comparirà di nuovo in corte, di presentarsi con un suo avvocato. Inoltre, ordino una perizia medica da parte dell'ospedale psichiatrico. Il 16 dicembre... Lei sta cercando di tapparmi la bocca, ecco, questa è la gente verità. Vuole portare via questo individuo dall'aula del tribunale? Ma non potete impedirmi di parlare! L'udienza è aggiornata. Perché la libertà di parola è ciò che rende forte questo paese! Vi serve gente come me! Lenny Bruce ormai è sulla lista nera di tutti i nightclub, di tutti i teatri negli Stati Uniti. Fa un'ultima trionfale performance nel dicembre del 65 al Berkeley Community Theater. Il 26 giugno del 66 partecipa come ospite a un concerto di Frank Zappa a San Francisco. Frank Zappa non poteva che essere uno che provava enorme simpatia nei confronti di Lenny Bruce. Era la stessa cosa, ma in musica. Il 3 agosto successivo Lenny Bruce viene trovato morto di overdose da morfina nel bagno del suo appartamento al 8825 dell'Hollywood Boulevard. La foto ufficiale è impietosa, lo mostra nudo, disteso sul pavimento con una siringa nella vena e alcuni farmaci accanto a lui. E cioè, il mondo dei media non si risparmia e soprattutto non lo risparmia. Il 3 dicembre del 2003, 37 anni dopo la sua morte, il governatore dello stato di New York, George Pataki, fa cadere tutte le accuse a carico di Lenny Bruce, primo nella storia dello stato a venire riabilitato. Lenny Bruce è stato definito la Gertrude Stein della comicità, così come la Stein ha influenzato Hemingway e tutta una generazione di scrittori. Lenny Bruce ha fatto da apripista a tutta una generazione di comici, ha creato quel terreno fertile in cui la satira politica e di costume ha potuto attecchire e proliferare. Stiamo raccontando di tanti colpi d'ala. I colpi d'ala più belli, secondo me, sono quelli che spianano la strada agli altri, sono quelli di persone che in qualche modo aprono un percorso, fanno una cosa per primi e poi vengono imitati e seguiti da tutti gli altri, perché la storia la fanno sempre le minoranze. Se volete mandare dei commenti o segnalare altre vite su cui puntare il mio microfono, scrivete al falcoilgabbiano@radio24.it, oppure al nostro sito, oppure al mio Facebook, al mio Twitter, al nostro Facebook e Twitter, insomma, se volete mi trovate. Ciao, a domani. Il Falco e il Gabbiano, un programma di Enrico Ruggeri. Testo di Simona Capodanno. Produzione a cura di Luigi Speciale e Anita Panizza.